La situazione è veramente molto molto drammatica, direi anche sconvolgente per chi vive in questo territorio. Non abbiamo mai conosciuto nulla del genere. Immaginatevi che, come detto dall'assessore ai servizi demografici del comune di Bergamo solo 2 giorni fa in conferenza stampa, nonostante siano state allestite 3 camere ardenti straordinarie, non sanno più dove mettere i cadaveri. Sono tantissimi. È solo di ieri la notizia che diversi sindaci denunciano come i report regionali, e quindi i dati ufficiali, sottostimino pesantemente il numero delle morti, che è in realtà spaventoso. Stiamo parlando di centinaia di persone. Mi sono fermato ieri intorno a 400 morti ufficialmente, ma i numeri sono molto più alti secondo diversi sindaci della provincia di Bergamo, e vi lascia immaginare quale sia il livello di contagio, specialmente in quella che avrebbe dovuto essere, e secondo me la faccenda incriminata, la zona rossa della provincia di Bergamo, ovvero sia Alzano e Nembro. Ormai si sta dissipando anche un po' la coltre e l'imbarazzo rispetto a quello che si diceva tra i denti in città e in provincia, per come possiamo, attraverso WhatsApp tantissimo, attraverso i social network, ovvero sia che il contagio è partito da Alzano, Nembro. Non è stata istituita una zona rossa perché stiamo parlando di un territorio con una centralità produttiva incredibile, nel senso extraterritoriale per portata, è uno dei motori economici del paese, è un pezzo dell'automotive italiana. Non si è voluto fermare quando si poteva il contagio e circoscriverlo a quei 2 comuni, e è drammaticamente esploso il contagio in tutta la provincia. Questo significa ovviamente al momento che il nostro sistema sanitario è al limite. Al Papa Giovanni, che è l'ospedale della città, in questo momento, oltre alla terapia intensiva, sono stati creati 6 reparti Covid nell'arco di 10 giorni. Stiamo parlando anche in questo caso di centinaia e centinaia di ricoverati. Potete soltanto immaginarvi che cosa significhi. Per ogni reparto Covid c'è un reparto che viene meno e le cui funzionalità viaggiano al minimo. Ciò significa che, facciamo un esempio, è esplosa una per una fuga di gas a Seriate 3 giorni fa, dove sono state portate le persone ferite, in particolare la donna di 49 anni rimasta in fin di vita, a Milano con l'ambulanza, perché i posti letto chiaramente hanno un limite, le attrezzature disponibili hanno un limite, e il volume, la frequenza di persone che vengono portate in condizioni gravi in ospedale è insostenibile e ricade completamente sulle spalle di un personale sanitario che è allo stremo, che è in buona misura malato. Considerate che il sistema dei medici di base è in tilt, il che vuol dire che è inutile chiamare il medico di base. La maggior parte dei medici di base non sono soltanto intasati, ma si dice anche che a decine siano malati loro stessi. Immaginatevi che cosa vuol dire nelle nostre vite. La gente rimane a casa da sola, non ha una diagnosi, si cura per conto proprio, cioè a Bergamo siamo all'autocura domestica, a meno di condizioni gravi o gravissime. Sempre sulla questione sanitaria, ho letto che in queste ore stanno allestendo un ospedale da campo alla fiera. Che cosa sta succedendo esattamente in Lombardia? È chiarissimo come sia in atto in questo momento. C'è uno scontro, e lo scontro è tra un pezzo della classe dirigente del paese e il governo, che pongono la questione necessaria della ricentralizzazione del sistema sanitario, e chiaramente un pezzo che sta al nord, che è nello specifico la Lega, che questa idea che si fa strada vuole assolutamente contrastarla. Considerate che in Lombardia la sanità è la gallina dalle uova d'oro, e quando parliamo della vicenda di Formigoni, che tutti sanno essere stata legata a meccanismi corruttivi macroscopici attorno alla sanità, parliamo anche della Lega che per 20 anni ha governato questa terra e ha governato sempre in insieme a Formigoni. Cosa c'entra con la questione dell'ospedale in fiera? C'entra e come? Perché da un lato si fa strada questa spinta alla ricentralizzazione, quindi l'impiego civile dei militari negli ospedali, che sono una presenza dello Stato in questo caso, ma soprattutto l'ipotesi paventata e contemplata dal nuovo decreto che alcuni ospedali privati e strutture private con il personale annesso possano essere temporaneamente requisite per provvedere alle necessità di cure, al diritto alla salute degli abitanti del territorio. E dall'altro lato lo scenario è quello della risposta Fontana del governatore, che cosa vuole fare? Vuole fare un ospedale da campo, vuole farlo a tempo record, vuole farlo con un esborso economico che ricade sulla collettività enorme per contrastare l'iniziativa pubblica. Ritengo che il farsi strada della necessità di una ricentralizzazione delle funzioni, diciamo, legate al diritto alla salute a livello nazionale sia forse uno degli aspetti positivi di questa emergenza, come positivo è più in generale la centralità che sta acquisendo nel dibattito la sanità e il fatto che tutti ci stiamo rendendo conto che la salute è pubblica, la sanità pubblica è una risorsa eccezionale, e anche individuare e collocare il progetto dell'ospedale in fiera dentro un tentativo di risposta autonomista, federalista da parte della Lega, egoistica dal mio punto di vista, ma anche molto molto interessata. È una corsa contro il tempo a chi arriva prima questa volta. Su questo noi credo dovremmo interrogarci. La sanità privata deve dare il proprio contributo. Se è necessario requisire delle strutture della sanità privata per garantire il diritto alla salute a tutti, queste strutture convenzionate che hanno ricevuto decine e centinaia di milioni di euro negli ultimi anni in Lombardia devono dare il proprio contributo, perché la salute di tutti viene prima. Io penso che questo, in una fase di drammaticità come quella che viviamo in città in questo momento, sia condiviso pressoché da chiunque.